want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buona domenica da Giugio Telesforo, questo è il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24 che torna nell'edizione weekend per celebrare oggi l'International Jazz Day. Ormai è qualche settimana che promuoviamo questo evento, anche perché Radio 24 è partner media del concertone che si svolgerà mercoledì prossimo a Roma all'Auditorium Antonianum, ma tanti sono i concerti nel nostro paese e in giro per il mondo che celebreranno la musica jazz per The International Jazz Day per l'UNESCO. E vado a salutare, dopo una giornata di assenza, ho messo anche una nota, il nostro redattore Francesco Tromba, che è arrivato pieno di foglie e di informazioni proprio per annunciare i concerti che ci saranno in giro. Ieri costipato, oggi come ti senti? Molto meglio, grazie al peperoncino. Grazie al peperoncino, quindi tutti curi con sostanze naturali tipiche della tua terra. Sì, come gli scozzesi si curano col whisky, io mi curo col peperoncino. Col peperoncino, voglio ricordare che sei calabrese. Esatto. Ecco, tra l'altro ti saluta Sergio Cammariere, che è stato con noi ieri, al quale ho regalato questo barattolo d'induia freschissima che hanno preparato i tuoi parenti. Chi, tua nonna l'ha fatto? Sì, mia nonna. Tua nonna con le sue mani, però non ha gradito molto perché lui mi ha detto che è calabrese del nord e quindi a Crotone non si utilizza molto l'induia. Ma strano, io ho amici a Crotone che la usano spesso, anzi più di me. Sì, sì, si fanno anche degli impacchi. Sì, sì. Pasta. Impacchi d'anduia per far passare dolori e problemi muscolari. Ma veniamo all'International Jazz Day, sì, perché è stato istituito dall'UNESCO nel novembre del 2011 proprio per sottolineare il ruolo diplomatico e di unione dei popoli di tutto il mondo e quindi il ruolo che ha svolto in questi anni la musica jazz. La storia stessa della musica jazz è una storia fatta di libertà d'espressione, pace e dialogo tra le culture più lontane, e il fine con questo concerto è quello di promuovere i valori che il jazz ha sempre portato con sé e celebrarli con la musica stessa. Quindi per questo il 30 di aprile di ogni anno l'UNESCO, tramite il direttore generale Irina Bokova e l'ambasciatore del dialogo interculturale e presidente del Thelonious Monk Institute of Jazz Herbie Hancock, organizza concerti in tutto il mondo. Allora, in questa prima parte andiamo a verificare quali saranno gli artisti protagonisti del grande concerto che si svolgerà a Osaka, in Giappone, mi pare anche, Francesco, in una location bellissima, importantissima. Sì, sarà nel parco del castello di Osaka. Che meraviglia, una location strepitosa, ma molte sono anche le location bellissime che ospiteranno gli artisti italiani nel nostro paese, ma di questo ne parleremo nella seconda parte. Allora, verifichiamo subito gli artisti presenti a Osaka. Invidio moltissimo gli italiani che si troveranno in Giappone proprio mercoledì prossimo. Fra i protagonisti del concerto di Osaka c'è anche la nostra amica Didi Bridgewater, che qui apprezziamo al nostro soundcheck da un album recente intitolato Second Line Smith, con protagonista il sassofono tenore di Craig Andy. Il brano è un classico del jazz come On the Sunny Side of the Street per Didi Bridgewater e Craig Andy al soundcheck di Radio 24. Can't be complete on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gonna set my feet to the sunny, to the sunny, to the sunny, sunny side of the street. Teddy Bridgewater, On the Sunny Side of the Street, dall'album Second Line Smith di Craig Handy per la distribuzione della OK, ovvero Sony Music, qui al Soundcheck. Oggi, lo ripeto, anticipiamo questo grande evento internazionale dell'International Jazz Day, mercoledì 30 aprile. Perché, Francesco, il mese di aprile per celebrare l'International Jazz Day? Ci sono essenzialmente due ragioni. Innanzitutto perché la fine dell'anno scolastico in America, le jazz band sono all'apice, diciamo, del loro studio, quindi si esprimeranno al massimo del loro potenziale. Sì, ad aprile le scuole di musica praticamente hanno i saggi, gli esami, e quindi si chiude l'anno scolastico per gli studenti di musica. E poi? Inoltre anche il mese in cui sono nati la maggior parte degli artisti. Tipo chi è nato ad aprile? Tipo Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Charles Mingus, Lionel Hampton, Shorty Rogers e anche Herbie Hancock. Anche Herbie Hancock è del mese di aprile, e poi ascolteremo anche Herbie Hancock. Invece Speranza Spalding non è nata nel mese di aprile? No. Non si sa quando è nata Speranza Spalding, potremmo verificare, però ci sarà anche lei al concertone di Osaka. Allora, ascoltiamo Speranza Spalding con Algebra Blessed, da un album meraviglioso che ha vinto un sacco di premi e tra l'altro è ancora presente nelle classifiche discografiche del jazz in tutto il mondo, su iTunes, ma anche con i supporti in CD, ha venduto moltissimo. Speranza Spalding, che sta vivendo un momento molto particolare per la sua carriera, suona praticamente con tutti. Ultimamente amici l'hanno vista in concerto a Londra in un bellissimo teatro, con Joe Lovano al sax tenore, Jack DeJohnette alla batteria. Pensate che concerto. Qui con Algebra Blessed da Black Radio Society, il brano si intitola Black Gold. Speranza Spalding al Soundcheck. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel. Maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. You are black gold. Now maybe no one else has ever told you so. Soundcheck, il suono della musica. Il 30 di aprile si celebra in tutto il mondo il jazz con l'International Jazz Day dell'UNESCO, e quindi ricordandovi che anche Radio 24 parteciperà a questi festeggiamenti, perché è partner media del concertone che ci sarà a Roma all'Auditorium Mantonianum proprio il 30 di aprile. Tra l'altro la prevendita è attivata e troverete tutte le informazioni nel sito di riferimento, che è quello del magazine Jazz It, proprio perché Luciano Vanni, direttore editore di Jazz It, ha collaborato all'organizzazione di questo concerto con tutta la sua struttura, e quindi nelle pagine del sito jazzit.it troverete tutti i riferimenti del caso, tutti gli organici, ma poi del jazz italiano e dell'International Jazz Day e i festeggiamenti italiani ne parleremo nella seconda parte. Vediamo che cosa hanno detto alcuni protagonisti del jazz, e non solo del jazz, di questa musica che tanto affascina. Per esempio Louis Armstrong, che cosa ha detto parlando di jazz, Francesco Tromba? Cos'è il jazz? Amico, se lo devi chiedere non lo saprai mai. Questo ha detto Louis Armstrong, quindi non si può dare una spiegazione a questo genere di musica, l'importante è suonarlo sempre molto bene. E poi? Ad esempio Duke Ellington ha detto che suonare il bop è come giocare a scarabeo senza vocali. Ma beh, questa è carina, però Duke Ellington ne ha dette anche altre. Ecco, per esempio questa qua, questa è molto forte, eh? In genere il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia. Ecco, non si sa perché. Infatti i musicisti di jazz sono visti non benissimo dalle famiglie, delle fidanzate e delle mogli. Ma non si sa per quale motivo, secondo te? Forse perché non sono molto seri, diciamo. Ma perché dici questo? Non è vero, mi potrei anche offendere. Sono un po' frivoli, magari, un po' farfallotti. Sono un po' frivoli, magari nella vita, ma non nella musica. Esatto. Esatto, allora torniamo invece alla musica. Altro protagonista dell'International Jazz Day nel concertone di Osaka lì in Giappone sarà Gregory Porter, che ascoltiamo qui con il brano che ha dato il titolo all'ultima pubblicazione con la quale ha vinto il Grammy Award quest'anno come miglior album jazz vocale. Si intitola Liquid Spirit e lui è Gregory Porter. dip down, take a drink, and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. E al concertone di Osaka non ci sarà soltanto Gregory Porter con Esperanza Spalding e Didi Bridgewater, ma arriverà anche il nostro ambasciatore universale per il jazz, per l'UNESCO, per l'International Jazz Day, che è Herbie Hancock. E quindi vogliamo chiudere prima del GR di Radio 24 proprio ascoltando, apprezzando la mentalità musicale, il carisma di Herbie Hancock, che fa musica da quando aveva 15 anni, militato nella band di Miles Davis giovanissimo e poi ha avuto un'evoluzione riuscendo a contaminare il jazz con ritmi funk, con l'elettronica. Insomma, è un grande musicista. Te piace Herbie Hancock? L'hai mai visto dal vivo? Dal vivo purtroppo no, perché i suoi concerti sono un po' troppo cari per le mie tasche. Vabbè, io l'ho visto diverse volte, l'ho visto anche a Umbria Jazz qualche anno fa e mi colpì molto perché la mattina proprio del concerto di Herbie Hancock arrivò la notizia della scomparsa della sua mamma. Ma fortunatamente Herbie Hancock, che è buddista, ha preso la cosa come una notizia, non voglio dire qualunque, ma certamente turbato, certamente commosso, è salito sul palco anche perché c'è una regola fondamentale: the show must go on, e quindi ha dedicato il concerto alla sua mamma e fece musica meravigliosa come sempre. Qui sentiamo Herbie Hancock con John Mayer, voce e chitarra, in un brano che ha avuto un bel successo qualche anno fa intitolato Stitch It Up. Herbie Hancock al soundcheck. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. Sound check. Il suono della musica. Voce bellissima di Greta Panettieri qui al soundcheck di Radio 24, anche la bravissima Greta, che ormai da anni vive a New York, sarà presente all'Auditorium Antonianum di Roma il 30 di aprile per festeggiare The International Jazz Day, e Greta sarà proprio inserita nella mia band New Joy con la partecipazione del giovane vocalist Arnaldo Santoro, uno dei migliori soul singer italiani in questo momento, che sta girando l'Europa fra Londra e Parigi con grande successo, il bravissimo Domenico Sanno al pianoforte, Joseph Bassi al contrabbasso e Roberto Pistolesi. Questi soltanto alcuni dei musicisti. Saremo più di 50, mio caro Francesco Tromba. Non si sa come faremo, ma tocca fare una scaletta serrata per dare l'opportunità e la possibilità a tutti gli amici coinvolti di potersi esibire per 5, 10, 15 minuti. E poi c'è una lista anche di musicisti che hanno aderito, che non avranno la possibilità di esibirsi perché abbiamo soltanto 3 ore a disposizione, ma abbiamo già sforato con i tempi sulla carta, siamo arrivati quasi a 4 ore, e quindi tutti gli altri saranno coinvolti sul palco per delle dichiarazioni, per raccontare il loro amore per il jazz. Ma ci sono altre formazioni meravigliose, addirittura Fabrizio Bosso ci raggiungerà direttamente da Barcellona per partecipare a questo concertone il 30 di aprile, e lui si esibirà con Rosario Giuliani al contralto, Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria. Un altro quartetto stellare molto atteso è quello composto composto da Giovanni Tommaso al contrabbasso, Antonio Faraò al pianoforte, Massimo Manzi alla batteria, Claudio Fasoli al tenore, così come ci sarà la partecipazione dei Fresh Fish, una delle band più forti per quel che riguarda il jazz contemporaneo in questo momento in Italia, quindi Marco Valeri alla batteria, Luca Fattorini al contrabbasso, Francesco Lento alla tromba, Daniele Tittarelli al sax contralto, ancora ci sarà il trio del giovane Mauro Gubbiotti, Pasquale Iannarella Quartet, Lemon Quartet di Leonardo Corradi, che quest'anno ha vinto il Jazzita Award come miglior organista italiano, e poi un altro quartetto atteso, Amedeo Ariano alla batteria, Dario De Ida al basso elettrico, Stefano Di Battista al soprano e Fabio Zeppetella alla chitarra. Allora ascoltiamo proprio Fabio Zeppetella dall'ultima esperienza discografica fatta per Giando Music, Fabio Zeppetella American Quartet, sì, perché con Fabio ci sono Aaron Goldberg al pianoforte, Greg Hutchinson alla batteria, Matt Penman al contrabbasso. Il brano, una composizione scritta proprio da Fabio Zeppetella, che si intitola How Deep, da questo album che si intitola Handmade. Fabio Zeppetella al soundcheck di Radio 24, e Fabio sarà a International Jazz Day Roma il 30 di aprile. Soundcheck, il suono della musica. E con tutte le note che mi girano per la testa da qualche settimana, stavo per dimenticare che non ci sarà oggi la seconda parte del nostro soundcheck a partire dalle 19:15, perché lasceremo spazio alla diretta guidata dalla bravissima Katia Caramelli, che seguirà la proclamazione dei santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II da parte di Papa Francesco. Torniamo quindi al nostro International Jazz Day, potete chiedere e richiedere tutte le vostre informazioni e notizie sui vari eventi italiani scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Da qualche settimana il nostro Francesco Tromba ha anche attivato la pagina Twitter del nostro soundcheck, la pagina Facebook, e comunque all'interno del sito ufficiale dell'UNESCO jazzday.com, nella sezione eventi, troverete tutti i grandi concerti in giro per il mondo e anche i numerosi eventi presenti nel nostro paese. Vi ricordo quindi che mercoledì prossimo 30 aprile a partire dalle 20:30 ci sarà il concerto anche all'Auditorium Antonianum di Roma, una sorta di riunione generale, assemblea generale dei musicisti italiani, oltre 50 musicisti sul palco, e quindi fatemi ringraziare Luciano Vani di Jazzit per la comunicazione, l'organizzazione, così come la comunicazione fatta da Radio 24, grazie a Roberto Ramberti, producer, che ha collaborato a coordinare il tutto per Groovemaster Edition, e grazie in anticipo al lavoro che svolgeranno i nostri ingegneri del suono Riccardo Bomarzi e il bravissimo Tony Sod, uno dei migliori stage manager in Italia, che lascerà le prove del grande concerto di Piazza San Giovanni del 1° maggio per arrivare all'Auditorium Antonianum e curare quindi la registrazione audio. Torniamo alla musica, quella di Rita Marco Tulli, anche lei eccellente pianista italiana, famosa nel mondo, forse negli ultimi anni è più presente da un punto di vista concertistico con le sue performance all'estero che in Italia, quindi sarà un piacere e un onore assistere alla sua performance all'Auditorium Antonianum. Rita Marco Tulli la ascoltiamo qui al soundcheck di Radio 24 con questa sua composizione bellissima intitolata Just Feel, tratta da un album di una decina di anni fa, un album bellissimo, ancora modernissimo nel concept e nel suono, album intitolato Koinè, quindi Rita Marco Tulli presente al soundcheck di Radio 24. questa è una magia creata dalla pianista Rita Marco Tulli. Anche lei sarà presente all'Auditorium Antonianum di Roma per festeggiare il jazz, per International Jazz Day dell'UNESCO, con una formazione meravigliosa. Rita Marco Tulli al pianoforte, Maria Pia De Vito alla voce, anche lei vincitrice del Jazzit Award, ma ormai lo vince da 4 anni, anch'io a dire la verità. Poi c'è Israel Varela alla batteria e la partecipazione come special guest di questa ballerina di flamenco meravigliosa. Io sono in parte platonicamente innamorato di Karen Lugo. Hai mai visto Karen ballare sul palco, Francesco? Ancora no, aspetterò. Ecco, preparati perché è uno spettacolo nel vero senso della parola. Quindi da Rita Marco Tulli siamo quasi ai saluti, e visto che parliamo proprio di pianisti, vorrei fare i complimenti al nostro Enrico Pierannunzi, che ha vinto la settimana scorsa il prestigioso premio Best International Piano Player agli Eco Jazz Awards, che sono praticamente i premi ufficiali dell'industria discografica tedesca, equivalente dei Grammy Awards statunitensi, e il nostro Enrico Pierannunzi è stato premiato per il disco Live at the Village Vanguard, uscito nel marzo del 2013 per la Cam Jazz, album che noi abbiamo presentato con Enrico Pierannunzi, quindi in qualche modo abbiamo stimolato questa vittoria. E facciamo i complimenti a Enrico Pierannunzi, che il 30 di aprile suonerà per International Jazz Day, ma non in Italia, sarà di nuovo al Village Vanguard. Quindi tutti gli amici che si troveranno a New York mercoledì prossimo potranno andare al Village Vanguard ad ascoltare uno dei più grandi musicisti italiani dal vivo. Chiudiamo allora, per ricordare il 30 di aprile, con un altro concerto importante in Italia. Ci spostiamo in Sicilia, dove due sono gli appuntamenti importanti. Uno a Catania, credo con Enrico Rava, giusto? Sì, ci sarà Enrico Rava in duo con Giovanni Guidi. Ottimo. E poi invece ci spostiamo a Messina, dove troviamo Stefano Bollani, che suonerà al Teatro Vittorio Emanuele. In solo piano? Sì. Allora, ascoltiamo Stefano Bollani per chiudere questo soundcheck qui dal vivo con Hamilton Giolanda. Anche questo è un disco bellissimo realizzato dal nostro Stefano Bollani, che aspettiamo al soundcheck, prima o poi capiterà dalle nostre parti. Il brano si intitola Apanei Teo Cavacchigno, e Hamilton Giolanda, lo sapete, è uno dei migliori interpreti di questo strumento, che è una via di mezzo fra il banjo e il mandolino, si chiama bandolim. E quindi Stefano Bollani e Hamilton Giolanda chiudono il soundcheck, ricordandovi, lo faccio per l'ultima volta, il 30 di aprile International Jazz Day, vari appuntamenti in tutta Italia. Noi saremo a Roma all'Auditorium Antonianum con la partecipazione di oltre 50 musicisti, e quindi ringrazio per la partnership Radio 24 per la comunicazione, così come Jazzit, così come Roberto Ramberti di Groovemaster Edition, che ha coordinato e prodotto l'evento insieme a Luciano Vanni. A tutti voi buona giornata, ancora buona domenica, ci sentiamo sabato prossimo con il soundcheck, e buon jazz a tutti, buon International Jazz Day a tutti, da Giorgio Telesforo e Francesco Tromba. Buona serata. Buona serata a te, Francesco, grazie. Eccolo qui, Stefano Bollani al soundcheck.